Sezione ventunesimo di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Algipag. Sirmio, tradotto da Aloysius Alex Michelangeli. Ecce, nitente lacu, viridis subridet, ocellus peninsularum, Sirmio. Phoebus eam spectat blandus, benacus et ambit argentei instar canthari, quem, lauro aeterne claras comixta per horas, oliva cingit mitior. Italia hanc pateram genetrix ad numina tollit almis coruscam brachiis. Inque illam dono divum cadit aetere gemma peninsularum, Sirmio. Formosam balli patris dutator ab alto austera vis supercili. Propte eam pugna titan, cecidisse videtur gu mons. Supinus et minax. Leva ex parte, sinulunato, porigit ulnas salodium illi candidas. Ut virgo exultans quae dum ingreditor coreas, dat velumque ventis et comas, ac ridet florumque jacit nimbun et juvenile caput renidit floribus. Garda in secessu fusca superaminet ace reditque imaginum lacus, et de subversis olim urbibus et reginis canit poema barbaris. Ast hic, o lalage, tanta unde in cerula tendis jucunda visum et spiritum, candida iam pridem religato ad saxa Vaselo Catulus hic bitinico. Sidebat diaturnus in undis lumina vivis micantibusque lesbiae, mendaces risus et cordis multivolum iniem videns aquas per vitrias. Lesbiadum in foides vesatur quad rivis et glubit nepotes Romuli. Sedibus et imis cantabat nympha Catullo, huc, o valeri deveni. Nostra etiam foibus, verum albus, permeat antra mitisque sicut cincia. Hic hominum vita, assiduo exagitata tumultu, apum susurris eminus. Stultitias animique estum hic oblivio solvit in frigido silentio. Hic facilis requies morlam induce corique, hic ceolarum virginum. Dum per aquas roseam protendit lampada vesper flotusque ad horas ingemunt. Tristis amor, musas odit, molisque poetas frangit ferusque interficit. Quis, lalage, et oculis bellum, minitantibus acre tuis, quis, o me, protegit? Tres lauri et mirti ramos dercerpe camoenis, soli et perenni concute. Nonne vides cycnos nantes, velut agmine facto, piscaria per mincium? Nonne audis viridi, quem corde bienor amabat, e pastu avenam virgili? Te converte, virum lalage cole, scaligera acce caput severus exerit. Susso in Italia bella, subridens murmurat, atque terras aquas etram adspicit. Aloysius Alex Michelangeli, Atene reditit 4 settembre 1881. Fine della sezione ventunesimo.